Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Dire zia volendo, ma insomma buonasera sorella. Buonasera. Sorella, ma ti posso dare del tu quanti anni assolutamente hai? Assolutamente sì, ho 25 anni, sono suor Cristina. Il fenomeno che ha commosso tutta Italia, forse anche tutto il mondo. Suor Cristina Scuccia, la sorina di 25 anni, nata a Comiso in Sicilia, formata professionalmente alla scuola di Claudia Cole, si presenta a The Voice e improvvisamente fa commuovere, esplodere in una sorta di tripudio di altruismo, di rinnovata fede, di idilliaca visione della vita. Tutti i rudi giudici, tatuatissimi, bruttissimi, drogatissimi, corruttissimi, che hanno passato mille battaglie, vedono la sorina che balla e canta con gli scarponcini da trekking e improvvisamente capiscono che si riapre tutta una sorta di antico mondo fatto di parrocchia, di profumino di minestrone cavolo bollito, di suorine che ti tiravano le orecchie, di bei momenti che sembravano ormai seppelliti. E quindi tutta l'intelligenza italiana si commuove. Che bello, ritorno all'origine, ritorno alla fede. Qual è stato il miracolo di Suor Scuccia? Beh, io ve lo domando a voi questa mattina. Quanto vi ha cambiato la vita voi, Suor Scuccia? 800 24 0024. Senti, Suor Cristina, ma sei una suora vera o... Sono una suora verissima. Non è possibile. Ma come ti è venuto in mente di venire a The Voice? Beh, ho un dono, ve lo dono, no? È così. Grazie. Grazie. Io onestamente sarei curiosa, ma non ti posso fare, come dire, un'intervista a fondo di sapere la tua decisione di farti sorella. Sicuramente avrai i tuoi motivi, però di cantare anche così non capisco più niente. Lo io sono sorella. Pessimo, malizioso, andrò sicuramente all'inferno. A me tutta questa operazione lascia lievemente perplesso. Non posso credere che improvvisamente Raffaella si sia accorta, solo quando ha girato la sediolina, di giudice blind che non vedeva, di davanti averci una suora. Ma come funziona un programma televisivo? Figuriamoci, gli autori sanno tutto, anche l'aria che respira l'ultimo dei cameraman. Figuriamoci non sapere che a cantare fosse stata una suora. Ma cadono tutti dalle nuvole, come se fosse stata una sorpresina. Improvvisamente appare questa suorina e tutti sentono buoni. E il successo è stato enorme, è stato sproporzionato. Ma è accaduta una cosa del genere? Ci hanno provato Fracionfoli, ci hanno provato tutta una serie di illusionisti della fede raccontata in maniera ilare, ci ha provato Don Mazzi. Nessuno ha raggiunto mai le vette di improvviso successo che ha avuto questa suorina, Suor Cristina Scuccia. Ma tu canti la domenica in chiesa? Sì, assolutamente, cioè, sì. Non lo so, se canti tu la domenica in chiesa con le donazioni possono evitare di pagare l'IMU sicuramente, no? Cioè, magari potremmo proporlo da... Se avessi trovato te da bambino quando andavo a messa, a quest'ora sarei papa, avrei continuato a fare. Cioè, sei sempre in tempo. Vedete, si converte anche J-Ax, cattivissimo, coperto di tatuaggi, una sola immagine lì, nei più lisergici dei paradisi, nelle più infami delle ammucchiate multiple. Invece, improvvisamente dice, se avessi ascoltato te, Suor Scuccia, quando ero bambino, fanciullo, ancora tenero d'oratorio, beh, sarei diventato papa. Ma sapete perché la cosa non mi convince? Perché... secondo me è una felicità. Lei, la suora, sa, canta benissimo, sicuramente. Secondo me è una brava cantante che a un certo punto si è fatta suora. Perché? Perché c'è bisogno di questo in questo momento. Nel grande marketing ecclesiale c'era bisogno comunque di una immagine nuova, pulita. Eravamo abituati comunque a figure terrificanti legate alla suoraggine, le suore quando passano in automobile la gente fa le corna, suora, suora, ti passo la suora, le suore aguzzine di quando eravamo piccoli agli asili, ma ancora di più aveva una documentazione dettagliatissima, santi e peccatori, tutto l'archivio della penitenzieria dell'archivio segreto vaticano, qualcosa del 400, in cui segnalano tutte le cose strane e deleterie che succedevano nel campo della comunità ecclesiale. Ma c'è una storia fantastica di una suora spagnola che entra in un convento di suore come novizia, dopo un po' succede qualcosa di strano, dicono erumpere naturam, cioè a un certo punto gli esce fuori qualcosa che non ci doveva stare e si apre una dieta ecclesiale per capire se questa suora poteva rimanere nel convento di suore, visto che da quel momento sarà capito che c'era qualcosa in più di una suora, doveva passare a un convento di frati. Ecco, noi abituati a queste antiche lontane immagini ci troviamo davanti suor Cristina e chiaramente rimaniamo illuminati, perplessi, improvvisamente convertiti. Ma secondo te cosa si dice al Vaticano che ti sei presentata a The Voice? Ah, guarda, non lo so, mi aspetto una telefonata da Papa Francesco, sicuramente. Ah, di consiglio. Sì. Perché lui ci invita ad uscire, a evangelizzare. Eh no, il Papa non chiama suor Cristina, è troppo famosa. Il Papa, nel suo disegno giusto, onesto, a sua mente ammirevole e strategico, chiama le persone che non se l'aspettano. Può chiamare suor Cristina, che tutto il mondo ormai ce l'ha presente. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno. Responsabile Blog Meter, che è un servizio di ascolto sui social media, misura, valuta la presenza di tutto ciò che c'è di importante, sia aziende, sia brand, sia personaggi. Qual è stato l'impatto mediatico online di suor Cristina? Parliamo di qualcosa come 34 milioni di visualizzazioni del video su YouTube, 170.000 condivisioni. Per darvi un'idea, l'ultimo video dei Wine Direction, famosissima boy band, ha ricevuto qualcosa come 33 milioni di visualizzazioni, quindi siamo ai livelli di suor Cristina. In tutto il mondo, non soltanto. In tutto il mondo, assolutamente un fenomeno, diciamo, internazionale al momento. Tu come te lo spieghi? Bah, sicuramente in parte è dovuto, insomma, all'aspetto iconografico che un po' la sorpresa è stata un po' costruita fondamentalmente. La suora che canta è sicuramente di per sé un elemento virale. Poi ci sono stati degli endorsement eccellenti da parte di Alicia Keys, che è poi l'autrice del brano che la suora ha cantato dal vivo, e di Whoopi Goldberg. Quindi a livello internazionale questi due star hanno rilanciato con dei tweet proprio il video della suora. Quindi secondo te, diciamo, tutto il circuito se ne sono accorti questi perché l'hanno vista in internet, improvvisamente, diciamo, guardiamo che fa Raffaella Carrà, hanno visto questa cosa e improvvisamente hanno dato l'endorsement, due calibri enormi, a questa suorina ingenua che ha studiato alla scuola di Claudia Kohl, che è nata in Sicilia, che nessuno conosceva fino a poco tempo fa. Sì, questo è un po' difficile da credere, ci sono sicuramente dei meccanismi che potrebbero essere legati appunto a comunicazioni, a attività di PR sotterranee fatte da chi effettivamente ha interesse e quindi probabilmente... Cioè tu hai nella tua esperienza visto qualcosa di simile, un'esplosione così improvvisa, così virulenta, soltanto per motivi, diciamo, fra virgolette naturali? Tu sai cosa intendo, niente bot, niente società che pompano i contatti, niente di niente. Beh, è difficile credere a una spontaneità di questo fenomeno. Sicuramente è anche, come dire, legittimo che un effetto di comunicazione, un'attività di comunicazione alla base ci sia stata per andare suggerire di guardare il video interessante a alcuni media internazionali. In quanto tempo è accaduto tutto questo? Beh, in una settimana fondamentalmente. Tutta questa settimana, ne abbiamo parlato questa settimana. E guarda, la suora prima cantava, partecipava a festival, però non se n'era accorto nessuno che esistesse. No, infatti, sicuramente un meccanismo di questo tipo c'è stato. C'è da dire anche che nel momento in cui un video di fatto, anche spontaneamente, raggiunge un picco di popolarità, il meccanismo automatico dell'algoritmo di YouTube fa in modo che il video venga ad essere visualizzato nella home page di YouTube. Quindi parliamo di qualcosa cosa che vedono 17 milioni di italiani in un mese tendenzialmente, cioè chiunque digiti youtube.com si ritrova il video di Suor Cristina, quindi è come dire portato a cliccare, a visualizzare il video. Poi si è innescato il meccanismo dei media che ha contribuito a moltiplicare questo effetto. Beh, ormai è entrato nel cosmo, è chiaro, era il razzo propulsore che serviva, adesso che lì non la tocca più nessuno, figuriamoci, arriverà alle vette più eccelse. Grazie Vincenzo Cosenza. Bruno Ballardini, buongiorno. Ciao a tutti. Esperto di marketing e comunicazione strategica, molto attento a quelli che sono i fenomeni comunicativi della Chiesa, con Gesù e Saldi di fine stagione, Perché la Chiesa non vende più, PM Edizioni, il suo primo libro, La morte alla pubblicità, un classico. Bruno, quanto ti convince in percentuale il fenomeno spontaneo per grazia divina, per Spirito Santo, per improvvisa esplosione di fede della suora Canterina? A me non stupisce più di tanto, perché in effetti abbiamo dei precedenti storici, ad esempio padre Cionfoli, il frate che cantava canzoni autoprodotte, che bucava poi lo schermo perché era la prima volta che succedeva una cosa del genere. Io trovo che la suorina buca ancora di più, perché in modo inopinato canta un hit del pop attuale e ha un endorsement, come diceva appunto poco prima il collega, di Alicia Keys in persona. E io direi più questo, perché guarda, c'è stato un annetto fa, andò da Daria Bignardi, un'orribile suora ex cubista ballerina, una cosa che non si poteva vedere, faceva una sorta di balletto fetish con un crocifisso, sembrava una cosa di cyber body art degli anni Ottanta, una cosa indicibile, non se l'è calcolata nessuno, ha scritto un libro ma l'hanno letto pochissime persone. Improvvisamente esplode e scoppia questa storia della suora ballerina. Però mi fermo un istante, 800 24 00 24, chiedo anche agli ascoltatori quanto, in che percentuale ha cambiato la loro vita, ha aperto loro degli orizzonti inaspettati, quanto ha riempito loro l'animo improvvisamente di grazia, di gioia, di altruismo vedere la suorina che canta. A me per niente, ma io ho già detto che andrò all'inferno. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Io mi ero detto che il primo che si fosse girato sarei andato da lui, quindi vado a cercarsi. Indovinate chi sceglie Suor Scuccia come suo tutor? J-Ax, il più brutto, il più cattivo, perché è chiaro, adesso c'è la bella e la bestia, cioè essere l'infamone e colei che lo redime, la coppia perfetta, sembra un disegno a incastro insopprimibile, diciamo una trama già scontata, non è che scegliere qualcun altro, è proprio mangiate l'immagine insieme. Secondo me è geniale, a me diverte, piace la cosa. Credo un po' meno, ma questo naturalmente fa parte del dubbio che mi porterà tra le fiamme eterne, che sia tutta questa una cosa così, nata così per caso, questa suorina con le sorelle passeggiava lì, è entrata dentro, ha cantato e tutti se ne sono accorti. Nicola, buongiorno. Buongiorno, sì. Io verrò all'inferno con lei. Lo so, staremo a caldo. No, niente, io trovo Suor Cristina molto molto brava, con una vocalità sicuramente particolare. Sì, ma se non fosse stata suora chi se ne sarebbe accorto? Nessuno. Ecco, solo questa la domanda. Io sono un musicista e mi dia un giudizio dal punto di vista proprio artistico. La trovo molto capace, molto molto brava, una vocalità sicuramente particolare, ma se non fosse suora avrebbe continuato a fare le sagre del paese. Ecco, andava la sagra della porchetta a cantare. Sì, sicuramente la comparsita per la gente che ballava, questo faceva. È molto brava a cantare, ma si sarebbe finita lì. Grazie, avevo bisogno di un supporto tipo tecnico, non avevo pensato di chiamare un musicista. Lei me lo dice sì, brava, io non so giudicare, non ho, ho l'orecchio dissoluto, quindi non so esattamente cosa canti, cosa dica. Claudia, buongiorno. Sì, buongiorno, all'inferno ci vengo anch'io perché... Tutti all'inferno con me, ragazzi, non vi fate attese, non è che si sta bene. No, io sono un po' cinica, nel senso che anch'io sono rimasta sorpresa dal grande eco, soprattutto internazionale, che ha avuto, perché insomma ancora oltretutto non si è neanche espressa più di tanto nella battaglia. E pensavo a un'operazione di marketing, perché pur guardando con grandissimo affetto la nuova... message della Chiesa, diciamo, con l'evento del nuovo Papa, eccetera, noto che comunque sono molto attenti anche all'immagine. Così mi è venuta un dubbio nel vedere questa operazione, volerla leggere come un contorno a un rinfrescarsi e sicuramente un pulirsi di una determinata immagine. Cioè già la chiamano la voce di Dio. Leggiamo la sua biografia. Anno scorso ha rinnovato i voti di castità, povertà e obbedienza. In estate tra un concerto e l'altro. Tra un concerto e l'altro, scusate, mi sta scadendo il voto di castità, fatemi andare a rinnovarlo, non si sa mai che al prossimo concerto dovessi cedere. Poi, adolescenza ribelle, c'è tutto. Dopo la cresima mi ero allontanata dalla chiesa, ero arrabbiata con il Signore, e sai quanto si preoccupava. Per me contava solo andare a lezioni di canto, frequentare l'Accademia di Spettacolo a Catania, farmi vedere nelle piazze e matrimoni con la mia band. E poi è stata anche la selezione di amici, però l'hanno scartata perché era De Filippi, allora dice: se non c'ho l'apparato dietro, che me ne faccio della suora? Bruno Vallardini, riprendiamo con te. Vedi, però il pubblico è con me, tutti disposti ad andare all'inferno, ma sollevare l'atroce e infame dubbio. Ma guarda, ci vengo anch'io, anche perché ci sono le donne più divertenti, quelle... Eh sì, ma i diavoli non te le fanno manco toccare da vicino. Lo so, quello è l'inferno, d'altra parte. Se no che inferno era? Comunque, io ho due osservazioni. Una è il fatto che effettivamente l'accoppiata finale con il rapper è perfetta, cioè il diavolo e l'acqua santa. Non prendiamoci in giro, non è una cosa che è accaduta in quel momento. No, quella è assolutamente telefonata, è assolutamente preparata. Okay. E la Carrà non poteva non sapere questa storia, è il suo programma, figuriamoci. Esatto, poi l'altro discorso... Quindi quando la Carrà cade alle nuvole, oddio mio, sorella, ma severa, ma ci prendiamo in giro. È più finto di Giuda. Questo diciamolo, solo perché io ho visto grandi colleghi fare pagine intere, che bello, risentiamo l'odore dell'oratorio. L'odore dell'oratorio è un odore terribile, di minestra muffita e di piedi sporchi, questo è l'odore dell'oratorio, diciamolo. Sì. Ecco, e l'altra cosa è sull'operazione di marketing. A me diverte di più il fatto che sia stata questa volta Claudia Coll a convertire una suora. Per fortuna. Perché è l'epilogo di una grande conversione della Coll, e nessuno avrebbe mai immaginato che all'inizio della sua carriera sarebbe arrivata a tanto. Beh, lei c'è un'accademia artistica per le Orsoline. Ecco. Academy. Sul piano del marketing, diciamocelo, cioè... Tutto questo sta incontrando il beneplacito, il tacito consenso del Vaticano. Finta di niente, ma voglio dire, l'operazione che c'è in questi giorni di un settimanale, addirittura nel format dei settimanali di gossip, fatto dal maggior editore italiano sul Papa, come unica star, è emblematico. Ecco, questo incontra il tacito consenso delle gerarchie e del Papa stesso. Anche perché Claudia Coll è inutile, per questo andremo all'inferno. Non possiamo dimenticarci la locandina del film di Tinto Brass. Può convertirsi quanto vuole, ma è inutile. Certo. Ci ricordiamo per quello. Non esiste conversione che ci soffra. Ma non è detto che sia un'immagine che getta l'onta su una persona. Ma è inutile non pensare a queste operazioni. Hanno dietro l'idea di dire: guarda, il fantastico culo su cui tu ti sei rovinato gli 3 da piccolo oggi è dedicato alla conversione delle popolazioni. Non lo so. Ma vedi, tutto questo funziona ed è pop, perché fa leva sul substrato cattolico che c'è ovunque. Cioè funziona perché ancora abbiamo questo genere di pregiudizio, di cose. Cioè all'estero abbiamo il gospel, cioè i preti cantano, ma cantano, ma proprio nessuno bene. Nessuno si fa un problema se una suora canta, se un prete canta, è normalissimo. Per noi no, siccome la suora deve essere qualcosa legato appunto alle cronache segrete, che gli esce qualcosa e diventa frate, capito? Non vogliamo ancora pensare se sono persone normali, con una grandissima apertura spirituale, possono fare qualunque cosa. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Come la pensi? Sì, effettivamente sì, anch'io penso al discorso così, ma... Guardi che rischiamo, Marco, siamo i primi a dire questa cosa. C'è stato un consenso unanime dal mondo laico, dal mondo confessionale, uno che avesse osato alzare questi dubbi sulla suora. No, ma infatti il discorso è molto semplice. Avevo anche un'esperienza all'interno della Chiesa. Nel senso, è un ex prete lei? Sì, ho fatto il postulato. Ci ha provato. Esatto, però il discorso qual è? Che la superiore ha dovuto per forza avvertire il generale ha dovuto per forza avvertire tutto il mondo della Chiesa per un'esperienza del genere, quindi la Chiesa è complice. Certo, lo sanno, Cloppice, lo sanno, adesso non è che è un reato, però lo sanno, certo, non è che nasce all'improvviso. Per andare a cantare dalla Carrà avrà avuto bisogno di tutta una serie di permessi, immagino, no? Ma sì, ma fa da cornice giustamente alla nuova politica della Chiesa, che è quella di entrare nella gente in maniera diversa. Vabbè, ma noi completamente alternativo. Non diciamo che è sbagliato, ognuno fa quel che vuole. Non diciamo nemmeno che siamo così ingenui da pensare che questa è una cosa che casca improvvisamente. Ci fosse una nuvoletta, l'angioletto manda giù la sua freccina, colpisce la povera bambina siciliana che diventa una star. Walter, buongiorno. Eccoci qua, ciao, chiamo dal Friuli Venezia Giulia. Allora, due cose. Io sono anche presidente di un'associazione di volontariato che si occupa di disabili psichici, quindi parliamo di centri di salute mentale. No? Conosco la materia. Lo so perché ti sento sempre. Abbassi la radio, però. Sì, un attimo solo. Eccoci qua, aspetta. Sì. Quindi? Quindi lei direbbe la suora quanto potrebbe fare per il mondo, sì. Lei qual è la sua conclusione? La mia ipotesi è questa, questo è il solito ragionamento della Chiesa, lo vediamo dappertutto, io lo vedo anche nel volontariato. Il volontariato della Chiesa si sta impadronendo del volontariato laico, cioè loro ormai vogliono diventare, come dire, padroni un po' su tutto. Se fanno cose utili, a me non ho pregiudizi. Ma no, su questo siamo d'accordo, però attenzione perché dentro le cose utili, se poi dopo portiamo avanti soltanto un sistema e un metodo e una strategia che è unica, poi ci manca tutto il resto, quindi mancano anche gli altri, il laico, quello che le cose le vede con una prospettiva e magari con una strategia e anche con una narrativa diversa. Altra cosa che volevo dire è questo, ormai la Chiesa si è capito che cosa vuol fare, lo vediamo anche con Papa Francesco, per l'amor del cielo, chi vuole crederci ci creda, è una bravissima persona, in Chiesa sembra davvero l'unico a possedere il dono della verità. Tutti i media sono con lui. Cioè lui un prete scalognato, brutto, che parla male, con l'allucevalgo, con le ginocchia X, non ha diritto di fare il prete perché ormai conta solo l'immagine. Bruno Ballardini. Ma certo, ma lo stesso Papa... Ballardini, chiudi. Ne vedremo delle belle. Anche perché poi, insomma, io fra poco, all'inizio di maggio, esco con un libro sul Papa, esattamente sul Papa. Beh, ti aspettiamo al varco, spero tu sarai il primo posto in cui vorrai parlarne sarà questo, che ti ha dato onore, gloria e oggi anche una destinazione diretta all'inferno. Grazie Chiappini, grazie Intonti, a lunedì.